puzza di regime, non la senti anche tu? C'è puzza di regime che non se ne può più. Apri la finestra per far cambiare l'aria. Viene dalle fogne, sale dalle cucine, viene dal televisore tutte le mattine. Puttane, ladri, nani e ballerine. C'è puzza di regime, tanfo di baccalà, direttori in tutù e giornalisti qua qua qua. Mentre vendono e svendono, arbitri e campioni, e quotano in borsa i sogni dei coglioni. Campioni del mondo, campioni di galera, al senatore dinosauro cade la dentiera. C'è puzza di regime, non ne posso proprio più. C'è puzza di regime, non la senti anche tu? C'è puzza di regime, viene dalla TV. C'è puzza di regime, non ne posso proprio più. C'è puzza di vecchiume, di finta opposizione, c'è tanfo di restauro, non sai nemmeno come. C'è tal telecomando, non farti ipnotizzare, fai crollare l'audience e crollerà il regime. Fai crollare l'audience e crollerà il regime. Soffrirà un po' d'astinenza da ballerine. C'è puzza di regime, non ne posso proprio più. C'è puzza di regime, non lo senti anche tu? C'è puzza di regime, viene dalla TV. C'è puzza di regime, non ne posso proprio più. C'è puzza di regime.